slick chick. See, a neat chick. The she's part of makes me tick. Mama, yeah, yeah, yeah. Clickety click, a slick chick. Yeah, yeah, yeah, yeah. The high heels on for the baby blues. The very first time, man oh man, yeah. It was a night. Yeah, yeah. Everybody stopped on a dime to look. Yeah, yeah. Even my heart, my heart got a shook. Yeah, yeah. She's my clickety click a stitch. Yeah, yeah. She's Miss Rhythm, she's Miss Rhyme. Oh man, she is mine. I said, oh, I got a stick chick. She's a neat chick, but she oughta make me tick. Mama, yeah, yeah, yeah. Clickety click, a stick chick. Yeah, yeah. Yeah, don't yeah, you yeah. know she's a stick? Yeah, yeah. Mama, yeah, yeah. I stick yeah, a chick. Yeah, yeah. Ah, yeah. Yeah, yeah. Chick. Yeah, yeah. Mama, yeah, yeah, yeah. Clickety click, I'll fix it. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I gotta click yeah, yeah. a little chick. Yeah, yeah. I don't yeah, yeah. you know she's slick. Yeah, yeah. Le 21 e 11, almeno così segna il Wombat Orologio nella Wombat Caverna dove è alloggiata la Wombat Regia. Slick Chick, sempre su ovviamente Radio Wombat, e una nuova puntata, anche perché mi devo far perdonare che ho zompato la puntata precedente, ve ne sarete accorti, spero. E se no non dovevo dirlo, ma io sono onesta e sincera e sì, l'avevo zompata, anche perché vi devo confessare che ho sottovalutato ampiamente, ma proprio ampiamente, il tema di quest'oggi e pensavo di avercelo già pronto per la settimana scorsa e no, è perché era un tema enorme, proprio ho scoperchiato un tombino. Ed è grassa se sono riuscita a portarvela oggi, perché oggi vi parlo di David Cronenberg per la serie Registi Allegrotti, Presi bene dalla vita e quant'altro. Abbiamo in precedenza parlato di Jim Jarmusch e beh, che lui in fondo poverino non era neanche così, cioè non è neanche così depresso. Ma poi siamo andati a finire su David Lynch e adesso, tanto per proprio affondare le mani nel torbido, ci richiamo da David Cronenberg. Faccio questa puntata peraltro per salutare due nuove trasmissioni che stanno per iniziare qui a Radio Wombat, una sul cinema e una sulla fantascienza. Non vi posso dare grandi altri dettagli perché, come tutte le cose importanti e delle vere star che riguardano le vere star, deve rimanere un po' un alone di mistero, quindi insomma fino all'ultimo non vi posso fare grandi rivelazioni. Ma insomma sappiate, tenetevi pronti, sappiate che a breve avrete appunto queste due nuove trasmissioni qui dai microfoni di Radio Wombat. E Cronenberg, dicevamo, David Cronenberg, allora innanzitutto c'è da dire che quasi tutti si stupiscono molto di come la vita di Cronenberg sia banale e priva di eventi traumatici, a contrasto invece con la visione disturbata disturbante direi che scaturisce dai suoi film. Questa è una cosa che notano un po' tutti, vari critici, biografi, estimatori, fan. A me, devo dire, stupisce ben poco e anzi trovo sia estremamente facile venire disturbati da invece una quotidianità normale e apparentemente serena. Ad esempio, riguardo alla sua separazione dalla prima moglie, Cronenberg ha dichiarato: «La mia prima reazione di fronte alla separazione è stato risposarmi subito e fare più figli. Io amo la monogamia, le altre cose non sono abbastanza ossessive per i miei gusti». Allora, il primo pezzo che ho scelto di questa scaletta è dedicato, quindi, per forza, alla moglie di Cronenberg. Il gruppo si chiama, per l'appunto, David Cronenberg's Wife, vi giuro esiste, e il pezzo si intitola You Should Have Closed the Curtains. But you wanted me to see. Well, you've made your point now. Why don't you come back to me? All of this pregnancy seems incredibly mean. Just like at these miserable lives, then you'll see what I mean. che poi sarebbe stato da dedicare effettivamente anche alla ex moglie di David Cronenberg. E vabbè, insomma, gli siamo un po' tutti nel cuore. Cronenberg, appunto, David Cronenberg viene indicato come pioniere e sicuramente uno dei maggiori esponenti di quel genere cinematografico chiamato body horror, che esplora il territorio, in qualche modo anche il territorio, ma no, volevo dire il terrore, esplora il terrore dell'uomo di fronte alla mutazione del corpo, all'infezione e la contaminazione della carne, intrecciando l'elemento psicologico della storia con quello fisico. Ovviamente questo lo lega moltissimo al cyberpunk, filone di cui parleremo a breve in un'altra puntata, dove avremo modo di parlarne un bel po', ma anche alla fantascienza, in generale alla tecnologia come elemento contaminante e perturbante. È molto legato a Ballard, sia per le tematiche che per la poetica. Non a caso Cronenberg analizza costantemente l'inner space, lo spazio interno dell'essere umano. La sua fantascienza, insomma, è qualcosa di molto poco classico e canonico, così come peraltro Ballard lo è per la fantascienza letteraria. I suoi primi film narrano di modifiche del corpo umano ad opera della scienza, modifiche che si risolvono generalmente nel caos. Un esempio su tutti è Il demone sotto la pelle, demone, di cui parleremo adesso. Più avanti poi l'interesse di Cronenberg si sposta verso l'angoscia interiore che questi cambiamenti portano con sé, ad esempio Brood, la covata malefica, Scanners, ma anche Videodrome, di cui parleremo. In seguito è lo scienziato stesso ad essere trasformato dalla sua stessa arroganza, vedi la mosca. Questo percorso culmina in Inseparabili, lo vedremo, in cui due gemelli ginecologi condividono ogni cosa nella vita e si lasciano trascinare in una spirale di dipendenze. Chiaramente la filmografia di Cronenberg è un bel po' lunghetta, vi potrei parlare di ciascuno di questi film, ma probabilmente dovrei fare un ciclo di 22 puntate, quindi non possiamo parlare di tutti i film, se lasciamo indietro i primi, ad esempio, anche un po' quelli più embrionali, corti, eccetera, e iniziamo da Il demone sotto la pelle, ovvero titolo originale Shivers, del 1975. Fu il primo film del regista canadese a essere distribuito a livello internazionale, pensate un po', uscito in anteprima a Toronto col film col titolo The Parasite Murders, è conosciuto anche, appunto, come dicevamo, come Shivers, e Shivers ovvero brividi, tremore, tremiti. Lo scienziato Emil Hobbes, questa è un po' la trama, si occupa di riportare alla luce gli istinti umani che a suo dire sono troppo soffocati dalla razionalità del cervello, sfruttando un parassita capace di inoculare nell'organismo ospitante un liquido che ne risveglia gli istinti. Hobbes sperimenta il parassita su Annabel Brown, una tredicenne sua amante, ma questa, avendo rapporti sessuali con diversi uomini, fa proliferare il parassita nel complesso residenziale dove abita, lo vedremo, un bel posticino. Lo scienziato capisce che l'esperimento gli è sfuggito di mano e dopo aver strangolato la ragazzina succede, ma in breve il parassita infetta tutti gli abitanti del complesso residenziale. Questa allegra e sognante e meravigliosa trama è la trama di un horror brutalmente pessimista, forse l'avevate intuito, e riflessivo, che associa l'analogia morfologica tra corpi umani e strutture architettoniche. È molto interessante questa cosa e si nota un bel po' nella fotografia di Cronenberg. Il complesso residenziale di cui parliamo, dove abitano i nostri protagonisti, è attaccato da un morbo che libera le profondità umane fatte di Eros e Thanatos. Tra l'altro, un po' tutto si conclude in questa nottata allucinata, e terminata la nottata, le voci fuori campo dei titoli di coda declamano che gli abitanti escono normalmente per riprendere la loro vita normale, nelle più normali delle condizioni, sono gli uomini e le donne di sempre, quelli che conosciamo come me e come voi, come tutti noi. E con essi la città, che sta ritornando come sempre alla sua vita quotidiana, per nulla turbata dalle voci di pretese, violenze, orge e crimini a carattere sessuale, voci dichiarate irresponsabili e infondate. Salve, mi chiamo Ronald Merrick e il mio compito è quello di invitare anche voi a entrare nell'Arca di Noè. È un'arca di gran lusso, un complesso residenziale unico al mondo, ideato per difendervi dalla contaminazione e dai pericoli della città. Qui, in quest'isola tutta vostra nel mezzo del fiume, niente inquinamento, niente violenze, aggressioni, delitti, immoralità. La città è vicina, ma la sua vita corrotta e corruttrice in tutti i sensi sarà sempre lontana da voi. Lasciate qui, insieme alla vostra auto, tutte le tensioni e le preoccupazioni, tutti i lati negativi dell'esistenza. E un grande parcheggio esterno accoglierà tutti gli ospiti che verranno a raggiungervi in quest'oasi. I'm going on my birthday. Shiver, shiver, shiver, shake, shake, shake. I got the shivers and the shakes and the belly aches. The shivers and the shakes and the belly aches. The shivers and the shakes and the belly aches. The shivers and the shakes and the belly aches. I got the shivers and the shakes. 'Cause I'm going on my birthday. Shiver, shiver, shiver, shake, shake, shake. Well, I got a little wonder and her name is Joe, but this one thing that I didn't know, Joe has a sister and her name is Flo, and I've gotta take her out to the show. I got the shivers and the shakes, 'cause I'm going on my birthday. Shiver, shiver, shiver, shake, shake, shake. Yeah, I'm going on my first date, and I'm, yeah, I'm going with Flo, and you know Flo, she's just too much for me. What am I gonna do? I'm scared. I got the shivers and the shakes, 'cause I'm going on my first. I'm supposed to take Flo to the show. And do you think I'ma sit down there and let her kiss me and try to be cool? I'm gonna jump up and run like any fool, 'cause I'm scared. I got the shivers and the shakes, 'cause I'm going on my birthday. Shiver, shiver, shiver, shake, shake, shake. Questo era Shivers and Shakes dei The Fascinators del 1958, il lontano 1958, l'avrete potuto anche dedurre dal fruscio meraviglioso di questo singolo registrato palesemente da vinile. È stato veramente difficile scegliere i pezzi da mettere oggi, perché Cronenberg presenta varie complessità, ma soprattutto da un punto di vista musicale, ma lo vedremo poi. Arriviamo a Videodrome. Videodrome del 1983, tra l'altro, così en passant, una delle attrici, l'attrice principale è Debbie Harry, cantante dei Blondie. Boh, così ve la butto come cosa, se ve la eravate persa. La lotta per il possesso delle menti in America dovrà essere combattuta in una videoarena col Videodrome. Lo schermo televisivo ormai è il vero unico occhio dell'uomo. Ne consegue che lo schermo televisivo fa ormai parte della struttura fisica del cervello umano. Ne consegue che quello che appare sul nostro schermo televisivo emerge come una cruda esperienza per noi che guardiamo. Ne consegue che la televisione è la realtà e che la realtà è meno della televisione. Questo è un virgolettato tratto dal film. A questo proposito, tra l'altro, vi consiglio caldamente, se non l'avete letto, Polvirilio, la macchina che vede, evidentemente influenzati a vicenda, probabilmente, credo. Videodrome si addentra nella mutazione della carne, nella fusione tra tecnologia e uomo. Max Ren, anche qui vi leggo velocemente la trama, ma non è che possiamo addentrarci più di tanto. Max Ren è il proprietario di una TV via cavo chiamata Civic TV, che trasmette spesso contenuti violenti e pornografici. Un giorno il suo amico Harlan gli annuncia di aver scoperto un segnale video pirata, Videodrome per l'appunto, che trasmette solo immagini di torture e violenze, per poi sparire dopo pochi secondi. Videodrome causa lo sviluppo di un tumore al cervello che produce allucinazioni e alterazioni nella percezione della realtà. Allucinazioni in realtà poi vedremo sempre più lunghe e realistiche. Il film poi degenera vertiginosamente in una trasmutazione dove realtà e realtà sono indistinguibili e l'umano è diventato postumano, liberandosi da quel che nel film viene definita la vecchia carne. Cronenberg ha studiato e amato, tra l'altro, tra le varie influenze, l'emergentismo, una corrente dell'evoluzionismo che osserva come esistano delle proprietà emergenti all'interno degli organismi viventi che non possono essere in alcun modo dedotte dalla conoscenza che abbiamo su ciascun elemento che li compone. I fenomeni che emergono nel corso dell'evoluzione naturale sono nuovi e imprevedibili e sono quindi indeducibili in linea di principio a partire dalla conoscenza dei componenti dei sistemi naturali da cui emergono. Per esempio, alcuni sostengono che la coscienza umana in sé sia una proprietà emergente, perché non può essere dedotta neanche dalla completa conoscenza dei singoli neuroni. Le proprietà emergenti sono una di quelle cose che rendono complesso un sistema. I sistemi complessi devono essere studiati a ogni livello, poiché ogni livello ha proprietà che non si mostrano a livelli inferiori. Non si può essere sicuri di saper prevedere come si evolverà la specie umana, quindi le possibilità sono aperte e l'immaginazione può essere liberata. Questo è Videodrome e questa è dalla colonna sonora Welcome to Videodrome, in particolare di Howard Shore. Today we are witness to the dawn of a new communications era, brought upon us by satellites, lasers, fiber optics, microprocessors, and magnetic bubbles, for the transfer of information, ideas, knowledge. questo era Videodrome, appunto dalla colonna sonora fatta da Howard Shore. Come vi dicevo, è molto difficile, almeno lo è stato per me, trovare una scaletta di pezzi, di brani dedicati a Cronenberg, perché essenzialmente tutta la musica delle colonne, cioè appunto della tratte dalla colonna musica dei suoi film, sono fatte tutte dalla prima all'ultima da Howard Shore. Questo compositore, in realtà piuttosto famoso, di cui evidentemente Cronenberg è follemente innamorato, perché veramente l'ha scelto per tutti i suoi film. Compositore che tra l'altro ha lavorato anche con Scorsese, Tim Burton, Peter Jackson, un sacco di nomoni, diciamo. Quindi in realtà, poi al di là di tutto, effettivamente è molto calzante i film, se l'avete... Insomma, se avete visto anche soltanto un film di Cronenberg, magari non ci avete fatto caso, ma la colonna sonora era assolutamente appropriata, come dire. Però, ecco, non è tanto appropriata per una trasmissione musicale, perché è sempre uguale, cioè è una roba un po' agghiacciante. Effettivamente Howard Shore, bravissimo, meraviglioso, però ecco, ascoltarsi un CD intero dei suoi brani è una roba un po'... non si poteva fare, ecco. E quindi ho dovuto un po' spaziare, un po' ve lo farò sentire, perché comunque è giusto rendere omaggio sia a Howard Shore sia a quello che di fatto ha scelto Cronenberg come musica, però ci ho dovuto infilare anche un po' altro, perché se no mi odiavate. Continuiamo quindi, eravamo a Videodrome, continuiamo perché qua ce n'è un bel po', insomma, siamo solo all'inizio. Continuiamo con La Mosca, ovvero The Fly, del 1986, scusate. È un remake del film L'esperimento del dottor K del 1958, che se non avete visto vi consiglio, è molto divertente. Film a sua volta tratto dal racconto La Mosca, La Mouche, del 1957 di Georges Langelin. O Langelin, non ho tanto, non so se è francese o inglese, chissà. E fatto tra l'altro questo film, la versione intendo non quella originale del 58, ma la versione invece di Cronenberg, prodotta per la casa di produzione di Mel Brooks, pensate un po'. Ebbe un vastissimo successo, peraltro, insomma, al tempo Cronenberg non era proprio famosissimo, e beh sì, questo film ebbe un successone, fu proprio un successone, con tra gli altri Jeff Goldblum e Gina Davis. E parlando così degli attori, non è proprio casuale, perché il regista vuole fortemente Jeff Goldblum per la parte di Seth Brundle, che vedremo è il protagonista, nonostante l'iniziale ostilità dei produttori. Goldblum fu, tra l'altro, tra gli attori scritturati, l'unico a non avere timore di recitare col make-up dell'uomo mosca, make-up che non era proprio una banalità indossare. Fu lo stesso Goldblum a suggerire al regista di assumere poi Gina Davis, all'epoca era la sua compagna, la compagna di Goldblum, per la parte di Veronica, insomma, c'è tutta la trama che non vi starò a dire nel dettaglio, ma un po' sì. Seth Brundle, appunto, è uno scienziato brillante e abbastanza solitario, dicesi nerd, che ha costruito una macchina per il teletrasporto. L'apparecchio funziona bene con gli oggetti, ma mostra pericolosi difetti, dei difettucci con gli esseri viventi. Insomma, poi la trama della mosca è abbastanza inutile raccontarvela, penso che tutti l'avrete vista, o almeno saprete a grandi linee di cosa parla. Cronenberg stesso ha detto che, questo en passant, ha detto che i suoi film dovrebbero essere visti dal punto di vista della malattia, ovvero dal punto di vista del personaggio che una volta entrato in contatto con il morbo, diciamo così, diventa simbolo della malattia stessa. Questa prospettiva assegna un punto di vista neutrale alla malattia e non tenta di demonizzarla, e è palesemente uno dei perni della mosca. Il protagonista della mosca, appunto, lo scienziato Seth Brundle, scopre di essersi geneticamente fuso con una mosca, con un insetto che per caso entra dentro la sua macchina, il teletrasporto. Tra le varie cose è interessante notare che, piuttosto che dire la macchina del teletrasporto ha sbagliato, è successo qualcosa di sbagliato, c'è stato un errore e quant'altro, in realtà nel film si preferisce dire la macchina del teletrasporto è diventata un fusore di geni. C'è sempre questa idea della trasmutazione, del diventare qualcos'altro in Cronenberg, che non è necessariamente qualcosa di negativo, cioè la trasformazione è sempre vista come un evento con la complessità del tutto, cioè che quindi essendo una trasformazione non si può neanche definire se è un processo negativo o positivo, perché ha sia del positivo che del negativo. In questo senso, diciamo, appunto, Cronenberg, che peraltro, come dicevamo prima, è un autore, diciamo, molto interessato alla filosofia, molto interessato all'entomologia storicamente, insomma, questa cosa si vede in diversi suoi film. A Cronenberg interessa esplorare le diverse possibilità percettive e le derive solo apparentemente patologiche derivanti dalla trasformazione e dalla disfunzione del principio di realtà. Quindi la realtà che in realtà viene, cioè che in realtà che continuamente viene trasformata, diviene qualcos'altro e tutto quello che ne deriva. Cronenberg volle evitare che il protagonista diventasse una mosca gigante, come invece poi era nel film da cui ha costruito il remake. Se lo andate a vedere, il film del 58 era bellissimo, quest'uomo con questa testa enorme da mosca, molto, molto così, mostruoso appunto. Cronenberg scelse di non fare questo tipo di non usare questo tipo di escamotage, perché una trasformazione di questo tipo non sarebbe stata fisiologicamente possibile. Cronenberg voleva qualcosa di più realistico, se di realtà si può parlare. L'idea del regista era che la trasformazione nella mosca sarebbe sviluppata come una malattia, come una sorta di invecchiamento precoce, al termine del quale sarebbe diventato Brundle un abominio, una vera fusione, vera, realistica tra insetto e uomo. Per creare la mosca, il truccatore Chris Wallace, che peraltro ha vinto Oscar, eccetera, studiò libri sulle malattie deformanti e, prima di iniziare la creazione del make-up, il team degli effetti speciali visionò più di 70 storyboard rappresentanti la trasformazione di Brundle mosca e il suo aspetto. Insomma, se la studiarono non poco. Alla fine, dopo tutta una lunghissima elaborata ricerca, venne scelto questo storyboard di Stephen Dupuy, penso si legga così, Dupuy, in francese, chissà. Jeff Goldblum doveva sottoporsi, grazie a questa scelta, a 5 o, nel peggiore dei casi, anche 10 ore di trucco per assumere l'aspetto del mostro. L'attore a volte mantiene il trucco anche per 20 ore al giorno, insomma, quindi diciamo che quello che si diceva prima, che fu un po' l'unico a non aver il timore di recitare con questo trucco, insomma, questa cosa non era proprio secondaria. Il film fu presentato in anteprima mondiale all'Uptown Theater di Toronto e la reazione del pubblico fu positiva, anche se a causa di diverse scene, mi verrebbe da dire quasi tutte, in tantissimi sentirono male e vomitarono e quant'altro. Non c'è da stupirsene, almeno, poi insomma c'è di peggio, insomma, l'ho visto io che ero piccola, ma insomma, effettivamente c'è di peggio, ma comunque sia, fa sempre il suo effetto. E questo che ci andiamo a sentire adesso, dopo una breve clip tratta dal film, è sempre dal nostro Howard Shore, Plasma Pool, tratto appunto sempre da The Fly, la mosca. Brundle Set, dammi un disco. Mi serve il primo teletrasporto a S. Brundle. Analisi, elemento primario, teletrasporto. Analisi elemento secondario elettrosborde. Se l'elemento primario è Brandel, qual è l'elemento secondario? L'elemento secondario è non Brandel. Passami la sequenza. Se l'elemento secondario è mosca, che ne è stato della mosca? Fusione. Assimilazione. Brandel ha assorbito mosca. Negativo. Fusione Brandel-mosca a livello molecolare genetico. Versione di una qualità infima che vi ho fatto sentire, pazienza, è andata così. Dead Ringers, inseparabili, anzi senza l'articolo, del 1988, proseguendo proprio in linea temporale abbastanza lineare. Dead Ringers prende spunto da un episodio realmente accaduto. Tra l'altro il soggetto è di Barry Wood e Jack Gisland, e tratto dal libro Twins. C'è un episodio realmente accaduto, ovvero i corpi dei fratelli Marcus, ricchi ginecologi newyorkesi, vengono trovati zeppi di eroina decomposti ed abbracciati in un appartamento di Manhattan. Già questa scena, diciamo che potrebbe essere una scena proprio che penso Cronenberg se la sia sognata proprio, boh, notti su notti, perfetta per lui, proprio era ottimo. Non doveva fare praticamente niente, il film era già fatto. E in effetti è andata un po' così. Si parlava all'inizio di Inner Space, scusate ma c'è una zanzara che mi sta aggredendo, nonostante teoricamente dovrebbe essere iniziato l'autunno, ma no. E appunto si parlava all'inizio di inner space, ovvero di spazio interno. Per vedere l'interno bisogna esternarlo in qualche maniera. Infatti il film è sempre perennemente in bilico tra il visibile e il non mostrabile. Ad esempio l'utero triforcuto di Claire Niveau, la protagonista, cosa che già di per sé appunto è anche questa è da sola un film di Cronenberg. Oppure i tagli che i bisturi operano sulla pelle. Fra in bilico tra ciò che possiamo vedere e ciò che non potremmo mai o perlomeno non possiamo ancora vedere. Beverly ed Elliot Mantle, questo la trama, gemelli monozigoti, sono degli affermati ginecologi con un interesse maniacale per la loro professione, ovviamente, e per il tema dei gemelli in generale. Ovviamente perché sennò non ci si faceva il film d'altra parte. Fin da piccoli hanno condiviso tutto e da grandi si scambiano anche le avventure con l'altro sesso, che comunque non intaccano mai la sfera sentimentale. Almeno così sembra. Beverly è il lato oscuro e perverso di Elliot, insomma un fratello è il lato oscuro dell'altro, mentre Claire, la donna dall'utero triforcuto di cui dicevamo prima, che a un certo punto entra in scena, è colei che in qualche modo interrompe l'equilibrio tra i due rendendoli vulnerabili. Beverly, appunto il lato oscuro della coppia di fratelli, di nuovo uno scienziato, un medico, un ginecologo per giunta, questa volta interviene sul corpo, e lui, come del resto era prima per la mosca in qualche maniera, però a questa girata non è un evento fortuito, non è una malattia, ma è proprio lo stesso scienziato a intervenire nella trasformazione, a operarla. Il corpo della donna è sbagliato, non torna, e allora Beverly inizia a disegnare e costruire strumenti chirurgici appositamente pensati per donne mutanti. Da lì poi c'è tutto un vortice sempre più ossessivo e ossessionante che non vi sto a raccontare, ma che in qualche modo, se amate Cronenberg, probabilmente conoscerete, ma insomma se no vi potete anche immaginare. Di nuovo Howard Shore, giuro che tra poco la smetto, appunto colonna musica di The Dringers, questi sono i main titles, scusate, quindi insomma i titoli di testa. Dicono che lei abbia ucciso sua moglie. È vero. Chi gliel'ha detto? Beh, le voci girano. Non è stato un omicidio, è stato un incidente. Non ci sono incidenti. Per esempio, io ho ucciso mia moglie lentamente per più di un anno. Cosa? Beh, non intenzionalmente, si intende. A livello intenzionale conscio, sarebbe a dir poco mostruoso. Ma lei lo sa consciamente, l'ha appena detto, ne stiamo discutendo. Non consciamente. Sta succedendo in maniera telepatica. Non consciamente. Non capisco. Se guarda attentamente le mie labbra, si accorgerà che sto dicendo altre cose. Non le sto parlando dei modi in cui sto uccidendo lentamente Giovanni. O della cameriera Fadela che ho assunto per farla ammalare con la stregoneria. Né delle medicine o delle droghe che le ho dato. Ma delle costanti critiche che intaccano la sua autostima e della sua sanità mentale che io sono riuscito a distruggere senza essere ovvio. Vede, Johnny crede semplicemente di non poter riuscire ad essere precisa come desidera. A meno che non scriva tutto manualmente. Ascolti, temo di non essere una buona compagnia stasera. Grazie per l'offerta. Comunque penso che dovrò accettare con riserva. Meno male, non era lui la buona compagnia, figurati l'altro. Questo era Il Pasto Nudo, una clip tratta dal film Naked Lunch del 1991. Il film è ovviamente ispirato al romanzo dello scrittore statunitense Burroughs, William Burroughs, nonché un po' fusa la cosa, nonché le reali circostanze in cui Burroughs scrisse a Tangeri questo libro. La trama del film prende spunto da alcune visioni, non c'è una vera e propria trama, sono visioni che si intrecciano, appunto prese proprio dal romanzo stesso, e una serie di episodi sconnessi tra loro, diciamo, gli scarafaggi, il dottor Benway, l'interzona e via via. D'altra parte non è che la scrittura di Burroughs sia molto diversa. Nella seconda parte del film si narra un episodio della vita reale di Burroughs, tra l'altro anche qui nella clip che abbiamo sentito c'era una leggera frecciata, ma non era proprio questo l'episodio preciso. Comunque si narra un episodio della vita reale di Burroughs, Martin e Hank, che nel film, che in realtà rappresentano rispettivamente Allen Ginsberg e Jack Kerouac, recuperano William, il protagonista, dal suo viaggio nell'interzona, e lo invitano a concludere e pubblicare il suo romanzo che ha intitolato Pasto Nudo, aiutandolo a ordinare le centinaia di fogli di appunti stesi in quel fino ad allora. In realtà nel 1957 Burroughs fu davvero ritrovato a Tangeri da Kerouac e Ginsberg sotto miliardi di droghe e sommerso da fogli di carta che lo scrittore non ricordava assolutamente di aver scritto e non sapeva assolutamente dire come erano finiti lì. I due amici lo aiutano a ricomporre i frammenti per dare vita poi a quello che diventa il romanzo Il Pasto Nudo, che poi lo rese celebre in tutto il mondo. Burroughs, tra l'altro, appunto, era fuggito a Tangeri dopo aver commesso l'omicidio accidentale di sua moglie giocando al Guglielmo Tell con una pistola. Mi sento di sottolineare questa frase, appunto, giocava al Guglielmo Tell con una pistola. D'altra parte Burroughs era un tipino un po' così, si era rifugiato a Tangeri, tra l'altro mai stato processato per omicidio, bizzarra questa cosa, e pare che non è che si fosse rifugiato a Tangeri come uno potrebbe ingenuamente pensare, in preda al rimorso, ai sensi di colpa. No, era così, era un po' così, uno si distrae. E Il Pasto Nudo si tratta appunto di un libro con frasi apparentemente senza senso e non correlate tra loro. Chi conosce Burroughs lo sa che è un po' il suo stile. In realtà si potrebbe trovare un filo conduttore, beh, si potrebbe, sì, sicuramente si trova un filo conduttore dell'opera nel controllo sulle menti che lo Stato, le istituzioni possono attuare sugli individui. Nel libro vengono paragonati due stati immaginari, Anexia e Terra Libera, che hanno ciascuno diversi gradi di controllo sulla mente, sul cervello. O anche la telepatia, un'altra delle tematiche evidenti è quella della telepatia quale strumento per sfuggire a questo controllo e alla censura attuata sulle menti umane. Quindi c'è un po' tutto questo tema ricorrente nel rifugiarsi nello spazio interno di cui parlavamo anche prima, per riuscire in qualche modo a sfuggire al caos e al continuo controllo da parte di invece un mondo esterno sempre più ingerente, sempre più repressivo e sempre più totalizzante. Il fumettista spezzino Gianluca Lerici, meglio conosciuto a tutti come Professor Bad Trip, ha adattato tra l'altro una serie a fumetti su questo libro, pubblicata dalla Shake. Dal 1980 all'82 Bad Trip fu anche molto conosciuto come cantante degli Holocaust, in quella che poi era diventerà poco dopo il granducato hardcore, ovvero la scena punk hardcore toscana di quegli anni. Negli anni, cioè via via, negli anni che passano, Bad Trip inizia a autoprodurre con questo pseudonimo t-shirt, appunto fanzine, un po' di tutto, dedicato all'ambiente punk della scena che si viveva. Bad Trip aveva questo stile incredibile, io non so se ve lo ricordate o se lo conoscete, se non lo conoscete andatevelo a cercare, non è una cosa che potete perdere. C'aveva questo stile incredibile che è una sorta di fusione tra cyberpunk e psichedelia e riusciva a renderla graficamente in maniera veramente meravigliosa. Piano piano si fece strada un po' ovunque in Italia, ovviamente nel circuito sotterraneo e poi anche un po' in quello un po' meno sotterraneo, pubblicando tra le altre cose su Frigidaire e Decoder, altre cose che vi butto lì e che un giorno magari approfondiremo meglio, soprattutto Decoder direi. Il suo ultimo lavoro, tra l'altro, Greetings from Hell, è un calendario del 2007 realizzato dal Cox, dal Conchetta, l'occupazione milanese, e è stato terminato poco prima della sua morte improvvisa. Penso si trovi ancora e io ce l'ho, e insomma è molto molto bello, se riuscite a trovarlo prendetevelo, ve lo consiglio. Quindi ora, proprio per farla finita con Howard Shore, anche se forse non mi ricordo più, ma temo che ci dovremmo ritornare. Comunque ora vi faccio sentire un brano che non è assolutamente tratto dalla colonna musica di questo film, ma che si intitola Pasto Nudo, per l'appunto, ad opera di Borghesia, che sono un gruppo sloveno nato a Lubiana. Sì, a Lubiana, nel 1982. I Borghesia formano la loro estetica usando immagini di tutto ciò che è proibito, represso e tabù, almeno così sostengono, e del resto sono un gruppo piuttosto interessante. Here's what I do on my tomorrow. Da tanti anni ho una visione dell'Oriente. Donne esili coperte da chong sam e kimono, che muoiono per amore di immeritevoli diavoli stranieri. Donne nate e allevate per diventare compagne perfette. Donne che sopportano qualsiasi punizione da noi inflitta. Amanti ideali e pronte a tornare al loro posto. Sostenute da un amore incondizionato. Anime candide e rare. Questa visione è diventata per me ragione di vita. Il mio errore è stato semplice e assoluto. L'uomo che amavo non era degno. Non meritava nemmeno un altro sguardo. E invece gli ho dato il mio amore. Tutto il mio amore. Madama Butterfly, questa del 1993. E Madama Butterfly nei titoli di testa viene detto che la trama è un riferimento, cioè è tratta da un fatto realmente accaduto. Si allude alla relazione tra il diplomatico francese Bernard Barsicot, se si dice così, Barsicot, e il cantante dell'opera di Pechino, che poi in realtà era una spia, Shi Peipu. Però non si può non tener conto, a partire ovviamente dal titolo del film, anche dell'omonima opera di Puccini, che ricordo andò in scena nel 1904 ed era ispirata invece al dramma giapponese di David Belasco, tratto a sua volta da un racconto di John Luther Long. La storia dell'opera è già piuttosto interessante, insomma, la storia dell'opera di Puccini, però ora non siamo alla fuga del gatto e quindi non possiamo analizzarla più di tanto, ma diciamo che si è un po' evoluta nel tempo e ci sono state moltissime versioni. E probabilmente il regista è stato, almeno questa è l'opinione di alcuni critici, è stato influenzato proprio da questa molteplicità delle versioni dell'opera, che ne hanno fatto, ne hanno poi dato, cioè ne ha composto poi l'identità. La Madama Butterfly è un'opera, diciamo, mutante, non esiste un'unica Madama Butterfly. E poi evidentemente Cronenberg ha trovato interessante sfruttarla sia per la storia sia per le varie molteplici possibilità che gli offriva. La prima immagine del film dopo i titoli che appaiono è quella di Jeremy Irons, un direi veramente impressionante Jeremy Irons, di spalle nel suo ufficio, che dice: un orientale che si suicida per un occidentale è ciò che affascina l'Occidente. In effetti questa è una descrizione piuttosto cruda, ma probabilmente rispondeva abbastanza a verità, che era in qualche modo un fascino imperialista, un fascino che per un dominatore insomma era molto difficile da resistere. Evidentemente l'uomo occidentale in qualche modo aveva e ha, mi sento di dire, tuttora metabolizzato questo fascino, questa affascinazione appunto dell'uomo occidentale che piega e che domina l'uomo orientale, In realtà poi lo vedremo nel film di Cronenberg, viene assolutamente ribaltato questo ideale e questa fascinazione, perché a questo punto direi che è abbastanza impossibile non prescindere dalla trama. In questo caso non è assolutamente l'uomo orientale che si suicida per l'uomo occidentale, e la relazione tra dominato e dominante è probabilmente del tutto ribaltata. Di fatto è la cultura occidentale quella che soccombe in qualche maniera, sicuramente in questo differisce un sacco dall'originale di Puccini, dove invece era tutto molto più canonico ed era la donna che si uccideva, la cultura orientale che aveva la peggio. Tutto molto più ovvio, insomma, la povera geisha o la povera donna orientale costretta per amore al suicidio. In realtà nel film di Cronenberg viene tutto completamente destabilizzato, tutto ribaltato, e con questo cambio di ruolo, in qualche modo, attraverso un inevitabile suicidio, il regista in qualche modo fa vivere allo stesso personaggio occidentale le stesse perversioni occidentali, capitalistiche, imperialiste che impersonava, e quindi in qualche modo è come se suicidasse l'intero impero britannico, francese o europeo in quel caso, insomma. I francesi si divertono a fare comunisti cinesi con la pelle bianca, un'altra frase che viene detta così en passant durante il film, viene detta da un ubriaco quando vede passare il movimento degli studenti per le strade di Parigi. Il film è ambientato nel 68. Non è solo nel rapporto tra i due protagonisti, non è solo in quel rapporto che Cronenberg esaurisce il tema del potere, del doppio e il relativo senso ambiguo, la relativa ambiguità che ne deriva. Diciamo, ci sono sia l'Oriente che l'Occidente, l'amato e l'amante, il dominato e il dominante, l'uomo e la donna, perlomeno le varie identità, e in qualche modo c'è anche un qualcosa di sottilmente politico, evidentemente ambientando un film negli anni 60, nel 68 in particolare, non poteva Cronenberg non guardare alla guerra del Vietnam, ai movimenti di protesta del 68, e in qualche modo porta sotto giudizio, oltre a il rapporto tra i due, tra il rapporto di potere molto personale tra i due, l'autodistruzione anche in qualche modo del rapporto tra i due, in realtà porta sotto processo evidentemente anche, anche altro, anche una società intera, o perlomeno è una lettura che si può dare questo. Diciamo che, insomma, è un film piuttosto impressionante, piuttosto ambiguo, ma anche piuttosto arrabbiato, ecco, come del resto chiunque si prende la briga di affrontare un tema come quello della Madama Butterfly, secondo me non può esimersi da un certo grado di rabbia e di ambiguità. Questo era, vi ho fatto sentire all'inizio una piccola clip della Madama Butterfly, e questo mi sembrava di doveroso trarre invece il prossimo pezzo da sempre la Madama Butterfly, ma questa volta quella originale di Giacomo Puccini, e ovviamente non potevo non scegliere Maria Callas con l'aria Un bel dì vedremo. Questa era Maria Callas, è abbastanza ovvio riconoscerla. Tra l'altro vi devo dire, a me emoziona tantissimo, in realtà molto di più nelle parti che sembrano meno virtuose o che teoricamente dovrebbero essere meno virtuose. Ma vabbè, sono problemi miei. Corriamo perché il tempo è abbastanza stretto e abbiamo ancora un bel po' di cose da dire e di film da guardare insieme, da sentire insieme più che altro, e arriviamo a Crash. Crash del 1996, che di nuovo, come gli altri, cioè come in altri film, esamina le mutazioni psicofisiche indotte nel corpo umano da un sempre più stretto rapporto con le tecnologie. Il soggetto è tratto dall'omonimo romanzo, come era stato peraltro per Il Pasto Nudo. Questa volta invece è stato tratto dal romanzo Crash di James Ballard, che tra l'altro, così giusto per fare un omaggio abbastanza ovvio, è anche il nome del protagonista, interpretato in questo caso da James Spider. James Ballard, lo stesso James Ballard, a Cannes nel 96, il 20 maggio del 1996, disse, Ballard a cui era piaciuto moltissimo il film di Cronenberg, disse: ho dichiarato che il film di Cronenberg cominciava laddove il mio romanzo finisce, dal momento che nel mio libro io tento di alleviare il lettore dall'apparente logica da incubo che sostiene Crash. Tento di persuaderlo che il personaggio del narratore che porta il mio nome è attirato, malgrado lui, nel mondo di Vaughan, questo scienziato teppista. Nel film di Cronenberg, al contrario, i personaggi accettano questo universo dall'inizio. Ciò che rimane latente nel romanzo diventa manifesto nel film. Invece Cronenberg, Cronenberg afferma: l'arte è sovversiva perché fa appello all'inconscio. Non sono un freudiano, ma credo nella civiltà come repressione. Più un film è collegato con l'inconscio, più è sovversivo, come lo sono i sogni. In qualche modo questo tema della civiltà come repressione e delle istituzioni dello Stato, ma dello stesso organizzazione sociale in qualche modo, come addomesticamento degli istinti dell'essere umano, come repressione, come soffocamento, ricorre tantissimo, è qualcosa che collega un po' tutti i film di Cronenberg, ma in particolare quelli che abbiamo visto anche prima, dal Demone sotto la pelle a Videodrome, ma qui in Crash è particolarmente evidente, come lo è nel libro peraltro. L'estetica radicale del film provocò la sua uscita nelle sale, mi verrebbe da dire non soltanto l'estetica ma anche tutto il contenuto, provocò nelle sale una vera e propria alzata di scudi, come del resto fu anche per l'uscita del libro di Ballard e peraltro della sua scandalosissima mostra. Ballard era proprio ossessionato, diciamo, comunque molto molto interessato da questo tema degli incidenti automobilistici, da appunto il crash, gli scontri, e oltre al libro in cui scandaglia approfonditamente la relazione tra Eros e Thanatos, come dicevamo, come citavamo anche prima, tra amore e morte e tra umano e macchina e ferita e sangue e inner space e tutto quanto, in realtà questo tema Ballard, oltre che nel libro, l'ha portato fuori, l'ha buttato fuori anche con una mostra negli anni che appunto nei primi anni 60, ribadisco nei primi anni 60, una mostra che probabilmente, anzi sicuramente, farebbe estremamente scandalo anche adesso, ma lui tranquillamente la fece nei primi anni 60, e quando portò a museo questa mostra fatta di macchine incidentate, vere macchine incidentate, non riproduzioni, ma macchine completamente distrutte. E nella stessa sala, insieme a queste macchine, c'erano donne completamente nude, immagini pornografiche e alcol a fiumi. Questa cosa Ballard la prese, viene la racconta nella sua autobiografia, che tra l'altro vi consiglio, interessantissima, pubblicata da Agenzia X in italiano, la racconta come una provocazione che lui fece, più che una provocazione, un esperimento che lui fece. Disse: va bene, vediamo cosa succede a mettere nella stessa stanza alcol, pornografia e macchine incidentate. Non si aspettava probabilmente quello che successe, che fu un delirio. La gente impazzì, orge continue praticamente tutti i giorni e reazioni pressoché isteriche. Quindi questo tema della repressione interna e dell'istinto umano continuamente messo a tacere dalla società organizzata è un qualcosa che Ballard ha sicuramente portato fuori in maniera destabilizzante e brutale, e che Cronenberg non poteva del resto non raccogliere. Appunto, si diceva come poi questa cosa fu accolta, beh, nel reale fu accolta come vi dicevo, ma poi i critici dovevano raccontarla diversamente. In America, cioè negli Stati Uniti, la proiezione fu posticipata di sei mesi, e il ministro della cultura britannico intraprese una crociata per la sua censura. Spesso, ovviamente, come sempre succede, le critiche più accese poi venivano da gente che neanche aveva visto il film, come nel caso dell'interpellanza al Consiglio Comunale di Napoli per vietarne la distribuzione che in Italia ancora non era stata fatta, e quindi probabilmente il Consiglio Comunale interpellanza o l'aveva fatta qualcuno che se l'era procurato di sgamo, ma nel 96 la vedo un po' difficile, o probabilmente era così sulla fiducia. E vi cito, giusto per finire, questa meravigliosa citazione. Crash resta una baracconata disonesta che nella povertà intellettuale di fine millennio rischia di diventare un pericoloso oggetto di culto per guardoni e cinefili boccaloni. Irene Bignardi, La Repubblica. Questi invece sono Nel cuore con Crashbox. Ok, il nesso è veramente pietoso, ma non ho trovato di meglio, però ve li faccio sentire comunque molto volentieri dall'album Nel cuore del 1989. Esistenza. Si scrive così. Una parola. E minuscola, X maiuscola, Z maiuscola. Esistenza. È nuovo, è prodotto da Antenna Research ed è qui. Adesso. Noi incoraggiamo la fedeltà del consumatore e vogliamo che ci aiutiate a testare i nostri prodotti. Siamo un team. Antenna e voi. Quelli tra i presenti che hanno già partecipato ai nostri seminari e inviti sapranno che normalmente sono io a condurre i gruppi nei nostri nuovi giochi, ma stasera non toccherà a me, no. Per il test di lancio di Existence by Antenna, a condurre il nostro seminario sarà qualcuno di speciale. Sì, è così. La più nota e affermata game designer è qui, in persona, per condurre voi, il nostro primo campione d'indagine, a conoscere la sua nuova creazione, Existence by Antenna. Ecco a voi, in tutto il suo splendore, la dea del GamePod, Allegra Geller. Il mondo dei giochi è come in uno stato di trance. La gente è programmata per raccogliere così poco. Ma le possibilità sono così grandi. Esistenza non è soltanto un gioco. È un sistema di gioco interamente nuovo. E comprende un mucchio di nuovi giochi che voi sarete i primi a provare. Allora, qui abbiamo 12 prototipi del GamePod metacarnale, il che significa che per la prima ondata del test ci servirà un campione di 12 volontari che si connettano a queste unità schiave del GamePod della Dea in persona. No, fermo. Troppa fretta. Oh, sì, giusto. È troppo tardi, mi sono perso la connessione. È solo la prima ondata, puoi sempre far parte della seconda. Tu e il signore brizzolato in prima fila. Sì, lei. La signora, venga, per favore. Grazie. Noel? Victor? Sì. Ora dovrò passarti alla scanner. Per via delle armi? Più dei registratori, in effetti. Investono tanti soldi in questi giochi, Noel. I nostri assistenti vi aiuteranno a connettere il pod alle vostre bioporte, usando la nuova creazione dell'antenna Research. Cos'hai lì dentro? Ho portato il mio GamePod. L'architettura è di originale tessuto Marway. Lo so che ormai è obsoleto, ma siccome non potevo permettermi l'upgrade 15 di antenna, mi sono inventato questo metodo di collegamento virtuale. Non ti servirà stasera. Pensiamo a darvi tutto noi. Come andiamo? Tutto bene? Allora quanto pensi? 2 ore massimo? 2-3 ore. È più sulle 3 ore, insomma. Sì. Va bene. È tutto a posto? Sei pronta, Allegra? Certo, è la mia parte preferita. Allora via! Adesso effettuerò un download di Existence by Antenna Research dentro ognuno di voi. Vi avverto però, stiamo per fare una corsa sfrenata. Ma niente panico. Qualunque cosa possa accadere. Allora ci si rivede tutti qui tra un po'. Pensavo che una simile star fosse timida. Passa le giornate a progettare giochi da sola nella sua camera. Credo che avrebbe preferito non essere obbligata a farsi vedere. Morte al demone, Allegra Geller! No! Tutti fuori! Comprate fuori! No! Morte al Antenna Research! Morte al demone Allegra Geller, frase che ricorderò penso per tutta la vita, bellissimo film Existence del 1999, non potete non averlo riconosciuto e se non l'avete visto dovete vederlo. Non è il più famoso, sicuramente non è il più oscuro, non è il più classico dei film di Cronenberg, ma a me devo dire piace un sacco. prima di parlarvi di Existence, che tra l'altro è l'ultimo di questi film, dei film che esaminiamo oggi, perché sì, ve lo devo dire, ci sarà un'altra puntata, perché ne ho troppe da dire su Cronenberg e quindi vi dovrete beccare un'altra puntata. Prima di passare a Existence, veramente vi devo leggere la Wombat Agenda con i prossimi appuntamenti. Dunque, si parte da domani, ovvero giovedì 28 settembre, al Next Emerson. C'è un concertino garage, concerto garage con due ottimi gruppi: i Timmy's Organism, un gruppo statunitense americano, e i Cogs, invece strani, anzi non stranissimi, visto che vengono dal Valdarno. Invece venerdì 29 settembre sempre due appuntamenti, sempre al Next Emerson, a partire dalle 21, serata Breaking, Exchange Ciphers, ricominciano dopo la pausa estiva le serate della crew break del Next Emerson, con Breaking, balli e bella musica, Vinyl Session e Open Ciphers. E invece al K100 di Campi Bisenzio c'è una serata invece un po' più ignorante, diciamo così, i 666 Colleferro Metal Punk tributo agli 883 e i Tondino Boys di Luca Oi, più DJ set con Contagio Trash, Contagio Trash, che vista l'influenza che circola in questi giorni, direi che è molto appropriato. Questi sono gli appuntamenti che ho, almeno quelli che sono pervenuti alla Wombat Agenda, con l'occasione, vi ricordo, la nostra casella di posta, postawombat@insiberia.net, e ovviamente il nostro sito wombat.onoblogs.org. Ma torniamo a noi e veniamo a Existence. In un futuro imprecisato, la famosa creatrice di videogiochi Allegra Geller sta per presentare la sua ultima creazione, Existence, ovvero un gioco basato su un particolare sistema di collegamenti biologici che permette al giocatore di vivere una dimensione parallela del tutto realistica, la bioporta, la meravigliosa bioporta. Durante la prima dimostrazione del gioco, come peraltro vi ho subito spoilerato, come dicono i giovani d'oggi, un terrorista infiltrato spara e ferisce Allegra. Il demone Allegra. Quest'ultima sarà costretta a fuggire insieme a Ted, addetto alla sicurezza, Jude Law, insomma, poteva andargli peggio, addetto alla sicurezza nella ditta che distribuisce questo videogioco, Existence. Il ferimento della donna, a quanto pare, ha messo a repentaglio la stessa sopravvivenza del gioco. Allegra Geller, la protagonista di questo film, viene perseguitata e condannata da questi che vengono definiti i realisti. Beh, non è caso, insomma, fin qua mi pare che di realtà ne abbiamo parlato un bel po', e quindi non vi stupirà il fatto che Cronenberg crea questa setta cosiddetta di terroristi chiamata i realisti, che sparano a Allegra Geller, la vogliono morta perché con i suoi giochi ha osato mettere in discussione il discrimine tra allucinazione e realtà. Direi che, insomma, si prende un po' di rivincite Cronenberg in questo film, e oltretutto c'è di nuovo tutto quello di cui abbiamo ampiamente disquisito nel corso di questa puntata, ovvero il rapporto disturbato tra macchina e carne, l'inner space e l'interno che esce fuori e straborda dall'esterno, insomma ce n'è di diverse. E non ultima, una certa vena horror che comunque Cronenberg piazza sempre quella, anche senza che i suoi film siano direttamente incasellabili come film horror. Ci ascoltiamo quindi, previa ultima clippettina di Existence, ci ascoltiamo un brano sempre non tratto dalla colonna musica di Existence, ma di un gruppo che si chiama per l'appunto Existence, qui il nesso era facile. Sono un gruppo punk hardcore svedese dei begli anni che furono, e questo è il Justice for All. Vi manda? Chiunque ci mandi non sono affari tuoi, siamo qui. Conta solo questo. Dio. Cosa ho fatto? Io non so perché l'ho detta. È stato il tuo personaggio a dirlo. È schizofrenica come sensazione. Ti ci abituerai. Ci sono cose che vanno dette per far progredire la trama e caratterizzare i personaggi. E queste cose verranno dette comunque, che tu lo voglia o no. Non opporti. Lasciati andare. E no, prima del pezzo mi sono dimenticata di salutarvi, quindi vi saluto, ciao ciao a tutti, ci rivediamo, anzi ci risentiamo mercoledì prossimo, sempre alle 21, sempre da questi microfoni, sempre su Radio Wombat, con a questo punto vi tocca la seconda parte di Cronenberg, sempre ovviamente su Slick Chick, ciao ciao! Just you, just me, just you all.